But the truth, them no know anything. Them no know, say we top ranking. Uptown top ranking. Chula see me and the ranking dread. Check out we jamming and ting. Love is all I bring. In a Makati suit and ting. In our khaki suit and ting. Love is all I bring. In our khaki suit and ting. Nah pop no style. I strictly roots. Nah pop no style. I strictly roots. James Brown, I Feel Good, visto che appunto se stiamo bene, se sentiamo bene. I would not. Dopo James Brown, I Feel Good, ci sentiamo una bella ricetta, diciamo, per sentirci meglio con i Prozac più e ringraziati. Ci sentiamo una canzone per tenere alto il morale, si chiama Up Up Up The Givers. Oh, we up up up for the glow show. Yeah, we down down here on the ground. Yeah, we up up up up above love. Yeah, we up up up in the clouds. Yeah, we up. Yeah, we up. adesso sentiamo una canzone dalla colonna sonora di This Is England, che ricordiamo, insomma, è il film che parla anche di nazionalismo e di quelle radici che hanno poi portato oggi a quello che è poi l'IDL, cioè quello, le radici dell'IDL oggi, quindi tutto il nazionalismo, diciamo, di periferia, anche delle classi magari un po' più basse, che però si richiama appunto all'odio fra poveri più che a quello, insomma, verso i ricchi, che sarebbe più doveroso. Quindi ci sentiamo Toots and the Maytots. Tra l'altro questo è un film che sta uscendo adesso nei cinema, quindi chi non l'ha visto, perché finora si poteva vedere solamente con i sottotitoli in inglese, sta al cinema, quindi magari ne potremo parlare un po' di più. Magari che scaricatevelo. Oppure scaricatevelo, insomma. Oppure vedetevelo in inglese, perché pare che sia abbastanza meglio. Ci andiamo a sentire una canzone dei Beach Boys, Good Vibrations, da un singolo che è uscito nel 1966. E eccoli, Beach Boys. And the way the sunlight plays upon her head. Her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up her vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up her vibrations, she's giving me excitations. Adesso sentiamo una canzone che è proprio la presa bene di quando si rientra a casa, cioè almeno per quanto mi riguarda è proprio la presa bene di quando rientro a casa, e se una radio puta caso la mette sono molto contenta, ed è Brimful of Asha, che è un testo dedicato a Asha Bhosle, una delle attrici cantanti della scena musicale indiana, quindi di Bollywood, che sappiamo essere famoso per musical e vari, e che comunque è ha alle spalle oltre 20.000 canzoni. Quindi appunto andiamoci a sentire Corner Shop con questa Brimful of Asha. Everybody needs a bosom. Everybody needs. bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Mine's on the 45. Muhammad Rafi, 45. Lata Mangeshka, 45. Solid State Radio, 45. Ferguson Motto, 45. Bon Public, 45. Jack Too Drunk and the Bowling Boogie, the Heavy Hitters and the Gigi Music, all in your radio. Adesso ci sentiamo Violent Femme, i Violent Femme con Blister in the Sun. Se parte, solo se parte. È decisa a partire, non si sa. Ecco. Yes, Dr. Altman, you'd like to leave a message? I will get back to you. E adesso ci sentiamo, visto che sono state fatte come I Blister in the Sun è stata rifatta da i Novel Vague, ci sentiamo Just Can't Get Enough the Depeche Mode. Adesso passiamo a Sunny. We'll be right back.

Eccoci qua, e adesso un'altra presa bene con un po' di ritmo soul rocksteady degli Slakers. E questa canzone la dedichiamo alla più piccola ribellula fra noi, e Sara. È proprio una presa bene. Well, no one else could make me feel as lonesome as you made me feel on Thursday night. Because you know when the world misunderstands me, only you can make me feel alright. I guess I thought that we could live forever in a state of such imaginary grace, where you could find your diamonds in my arms, dear. I could find a reason in your face. With Sarah, Sarah, a girl, you know I love you, and I love you for the rest of my life. With Sarah, Sarah, I'm always thinking of you. I'm so sorry I can't make you my wife this life. Slowly turn the key and drive away. Do you kiss my lips with hesitation? Because you're just afraid what they might say. Sarah, but girl, you know I love you, and I love you for the rest of my life. Sarah, I'm always thinking of you. I'm so sorry I can't make you my wife this life. Visto che ogni tanto anche l'amore è una presa bene, ci sentiamo Millie Small, I Love the Way You Love. Adesso passiamo addirittura a Bob Marley con Three Little Birds, che è un po' la mia preferita sua. Per continuare sull'ondata del prendiamola con calma e non ci preoccupiamo delle piccole cose, Take It Easy, Desmond Dekker. And the special. Take your time, take your time, take your time. No need to worry. Take it easy, take it easy, take it easy. No need to worry. No sleeping, no studying, no bumping, no boring, no bump. I'm riding the time. If you fall from the race, it's no disgrace. Just pick yourself from off the ground. Take your time, take it easy, take your time. No need to worry. Adesso ci sentiamo un'altra canzone che per me personalmente è una gran presa bene, Prince Buster Madness. La puntata oggi, quasi addirittura in orario, volge al termine. Abbiamo addirittura l'ora precisa, 13.07 e 17 secondi. 18, 19, 20, 20. No, vabbè, non continuiamo così. Però sì, noi ci rivediamo il prossimo giovedì, sempre dalle 12 alle 13, sempre Mamma Trona. Noi ci risentiamo probabilmente fra un bel po' di tempo. Baci a tutti e tutte. Arrivederci.